anni, e quindi l'unica maniera che ho pensato di trovare, adesso vediamo se ci riuscirò, è di incrociare gli elementi geografici, cercando di dare gli elementi geografici, poi non dico scusate, una persona che stava solamente riservando sulla mia storia rurale, viene scappata da una affermazione mia personale, viene scappata proprio dalla rivista, quindi ho pensato che la mia riflessione geografica fosse da leggere, da presentare, spero che sia così, in chiave etnografia, etnografica. In questo senso molti sanno, spero che nel corso sia stato chiaro, che c'è questa impostazione dell'etnografia del sé. Quindi magari questo corso ho parlato poco, ma ne ho parlato più lateralmente, ecco, l'etnografia del sé è cercato alcuni etnografi, dei RIS in particolare, dice dei RIS francesi di grande importanza, quando cominciò a fare una ricerca in Africa, una famosa ricerca, una delle prime ricerche sistematiche, lui cominciò a fare ricerca non solamente sulla cultura dell'Africa, ma anche su se stesso, perché c'erano tutta una serie di elementi di cui riusciva a capire, della sua formazione cattolica, della dimensione militante, del surrealismo, della politica coloniale francese, ma c'erano tutti elementi per il cervellista non era possibile fare un'etnografia sull'altro se non si facesse anche una etnografia del sé. In questo senso la dimensione non è più parlare dei fatti propri, non interessa a nessuno, ma cercare di sviluppare questa dimensione etnografica del proprio sé, dando elementi significativi dal punto di vista proprio culturale alle storie di vita, la mia, la vostra, per esempio. E per cominciare, diciamo, come la prima immagine, molto pensata, perché l'immagine dovessi mettere dal primo posto, dovrebbe pensare tantissimo, forse la migliore è proprio questa qua, perché non solo è una immagine su cui insomma, io ho lavorato tanto, sono anche tanto divertito, appassionato, perché vito trovo di Cronenberg, perché poi neanche a farlo apposta, proprio in questi giorni Cronenberg è stato a Roma e ha presentato al Palazzo delle Esposizioni non solamente i suoi film, ma anche molte immagini dei suoi questi film trasformati in quadri, che hanno una potenza, secondo me, straordinaria, anche perché una studentessa, spero che sia qui, mi ha proposto, quanto sia, cioè di, dopo l'esame c'è cioè il 5-6, no? Giusto? Allora, dopo l'esame di organizzare un viaggio alla Via Nazionale, insomma, all'esposizione, a Palazzo delle Esposizioni, per vedere sia Cronenberg, ma anche un artista veramente importante, Bill Viola, o Bill Vario, è uno dei primi artisti che ha lavorato con il video digitale. Saluto e ringrazio Luisa Ravagliani, grande docente di arte contemporanea, entra nel momento giusto, che parla di Bill Viola e entra con Luisa Ravagliani, naturalmente. Diciamo, uno dei primi grandi artisti che ha utilizzato il video come forma di espressività. Poi ci sono anche gli etruschi che non parlano in altro, quindi magari se siete d'accordo io pensavo di organizzare una cosa dopo il 6 e metterò l'avviso nel sito della cattedra e chi vuole per questo è per fare l'elogio, però per queste immagini poi tra l'altro per me è importantissima perché molto del mio metodo diciamo metodologico, questo aspetto di non rimanere esterni non solamente al cinema, ma diciamo alla comunicazione visuale generale, quindi ai fetici visuali, ma accettare la sfida di entrare, di farsi penetrare dal potere seduttivo è pericoloso e forse qualche elemento anche liberatorio dei principi, ecco lì, Max, che poi mi piace che si chiama veramente anche con me. Lui guarda, fissa questo schermo, sta fissando l'espansione dello schermo, per chi non ha visto il film, le labbra di Niki, che si stanno dilatando. cambiando e si stanno anche ammorbidendo, diventano labbra quasi vere, labbra di pixel, e quindi c'è da poter entrare dentro. Ma prima di entrare dentro queste labbra, vedete, lui sta sentendo che il video è anche un video carnale, ha magari pulsa, respira e poi entrare le labbra. Allora questa immagine di afferrare lo schermo e fissare e anche di farsi fissare, di mangiare, di farsi mangiare, di inghiottire, di farsi inghiottire, ecco, secondo me l'immagine che tutto sommato rappresenta meglio, credo, il tipo di antropologia che le piace. Vi dicevo, avevo pensato di articolare questa ultima lezione su tre livelli, no? Sul personale etnografico, la mia antropologia e politica università. D'altronde, come sapete, è ormai impossibile distinguere politica dall'università, in particolare in questi giorni, tra l'altro per un aspetto quasi fortunato, quasi, come si dice, necessario, proprio domani, cioè diciamo dopo il fine del corso, ci sarà una grande manifestazione nazionale a Roma, io ne sono veramente dato, spero che molti di voi, chi può, insomma, partecipa a questa manifestazione, perché credo che sia importante per la nostra università. E vi ho messo una serie di immagini, magari ne parleremo dopo. Allora, ricomincio questa mia presentazione fotografica con quello che è stato il mio grande maestro iniziale. Nel senso che io, adolescente, avevo avuto una decina d'anni, diciamo, e mi sono appassionato a Salieri. Io non so chi è fuori dall'Italia, ovviamente Salieri non so se è conosciuto, forse è conosciuto Sando, del Corsaro Nero, queste cose qua, ma Salieri era un personaggio, però veramente posso vedere un po' l'immagine, ma veramente bellissimo, con i baffetti, il baffone così, il cappelletto, un personaggio genovese che pare non sia mai andato via, uscito da Genova. E rimanendo per noi Genova ha scritto delle avventure che per me erano meravigliose sui mari del sud, su Ombracem, sui Caraibi, insomma ha scritto romanzi dappertutto, cioè che in parte è il nostro Conrad, diciamo così, solo che mentre Conrad navigava, viaggiava, sperimentava sul suo sapere, anche sulla sua pelle, che significava andare in Africa, andare in Malesia, andare nei mari del sud, Salieri è rimasto sempre a Genova. Allora questo per un lato mi diverte, no? Perché rappresenta un po' un limite che abbiamo ovviamente noi, vabbè, c'erano anche dei viaggiatori italiani, figuriamoci, però è mancato il grande viaggiatore italiano che abbia saputo raccontare l'alterità in modo significativo. E Salieri non raccontava l'alterità, raccontava se stesso, stereotipi, i cattivi, i buoni, eccetera, eccetera, ma a me piaceva tantissimo. Piaceva tanto perché rappresentava il viaggio, e quindi per me questo era molto chiuso, era molto introverso, per me era un senso di liberazione, quindi grande omaggio a Salieri. E il secondo momento che per me è stato formativo, secondo tanto per dire, perché non è vero che sono formativo, noi siamo abituati, io dico una cosa e poi chiaramente non è vera, è il cinema del sé, c'era un cinema che adesso è diventato, non so se è un cinema di alto, che aveva i famosi nudentini degli alto, cioè il nudentino faceva cinema del sé. C'è il termine di davvero un carino che volesse dire, però non so per quale motivo ho cominciato ad andarci da solo, veramente, e a Via Nazionale, sta vicino al Palazzo d'Esposizione, poi è stato occupato, insomma c'è tutta una storia interessante su Rialto, e lì davano questi film straordinari, davano i film rivoluzionari sovietici, davano l'espressionismo tedesco, di cui abbiamo visto in parte Fritz Lang, la Norimbaga francese, Godard per me è stato una grande, anche il cinema brasiliano, quindi Gabriel Rocha, storia tutto quanto. E è Wuhan. Solo che l'US su questo mare riesce a costruire non solo delle immagini di una potenza straordinaria, cioè un piano sequenza che dura 3 minuti e 10 secondi, che è l'inizio del film, che io spesso mostravo qualche volta, mostravo la lezione, quindi ci sono impegnato anche a cercare di dare una interpretazione, per 3 minuti e 10 secondi di piano sequenza in cui la cinepresa attraversa il confine niente meno che da San Diego e Tijuana, San Diego e Tijuana, cioè il confine più attraversato, più conflittuale, più complicato del mondo. Lui già negli anni degli anni 50 aveva capito che era importante, perché è vero che non gli permisero di girare là, lui la girava dall'altra parte, perché rimane una città di una terza, per il periodo del film. Quindi grande omaggio a Orson Welles, che ha fatto alcuni film più straordinari che dovrete vedere tante volte, spero, perché veramente l'inquadratura, il montaggio, la visione, l'impostazione di Orson Welles è straordinaria, e forse ha fatto anche il documentario più bello che si possa vedere sul Brasile, apparentemente. E naturalmente anche il Sorrentino spagnolo, grande. L'immagine del dottor Caligari, che è un film dell'espressionismo tedesco straordinario. Questo mi permette di anticipare un discorso, perché in questo periodo mia madre era una persona casalinga, aveva studiato, quindi senso comune, e però una forza straordinaria, molto popolare, era severina a sviluppare l'autonomia dei propri figli. Voglio dire, in particolare di me, e mi rimane appunto che non aveva nessuna formazione superiore nella scuola, tantomeno all'università, aveva la passione per il cinema muto, in particolare per Caligari, che ogni tanto quando doveva dire delle cose belle, insomma, mi parlava di questo film, per cui quando l'ho visto, non solo mi è rimasto molto impresso, ma per un caso, in una bancarella, ho incontrato un libro che si chiamava Da Caligari a Hitler, From Caligari to Hitler, un titolo era cinema tedesco in italiano, però c'era scritto Da Caligari a Hitler, perché io l'ho comprato, uno dei primi libri che ho comprato, perché ho capito tanti anni dopo, diciamo. Questo libro è stato scritto da Krakauer, e mi viene a chiedere, Krakauer è stato il grande amico di lui. Quindi anche Krakauer appartiene alla scuola di Francoforte, era un architetto, ha scritto delle cose molto molto belle sulla corridoia, su come si chiama, la hall dell'albergo, uno spazio ambito dal pubblico privato, ma ha scritto il primo saggio sugli impiegati. Pensate, nel 1929 Krakauer, giovane architetto, fa una ricerca sociologica sugli impiegati. E poi fece questo libro perché cercava di capire come in Germania, questo paese a grande tradizione di sinistra, c'era un momento di sinistra più avanzato in Occidente, c'era la grande filosofia, la grande musica, eccetera, perché proprio in Germania fosse nato il nazismo. Allora lui cerca di capire la motivazione di questa nascita del nazismo nella psicologia applicata al cinema. Cioè lui, un architetto, esule, ormai sta negli Stati Uniti, con Adorno, fa una ricerca straordinaria cercando di, cioè, utilizzando il cinema come framework, capite? Il cinema come testo su cui la ricerca. E a me questo mi ha dato un enorme piacere, perché allora il cinema non era solamente una cosa di carriere, da piacere, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, è bello, è brutto. Cose che io detesto, no? Detesto e dice sì, è bello, è brutto, che per me appunto non significa nulla. E probabilmente mi è derivata questa scelta da Krakauer, appunto, che cercava di capire se ci fossero dei fini culturali, anche psicologici, che legassero tanti film, anche diversi, a qualcosa di terribile che stava nascendo, e che alcuni registi lo capivano pace e la trasformassero in film. Ecco, questo per me è molto significativo, è stata di grande formazione e da allora io ho sempre avuto una sensibilità per il cinema, cercando anche di capire, di dare un piacere per il cinema, di capire se ci sono dei figli che significano qualcosa di profondo per tutti noi, e quindi questa dedica a poi naturalmente il rock and roll, John Baez, come dire, gli autori italiani, con i treni di cui abbiamo parlato, poi la grande esperienza che sta per me successiva di Beethoven, poi Mahler, insomma, certa musica che in alcuni piano classica in termini orrendo, la Tosca e Puccini, non piange ascoltando la Tosca, quindi secondo me è una manna, anche se non ci vede, ma insomma è qualcosa. Poi ho scoperto, tanti anni fa, questa etichetta francese che si chiama Musique du Monde, dove raccoglievano in modo etnografico tante musiche da tutta parte del mondo. E per me è stata veramente una sfera, probabilmente la guardia di questo libro. Questo all'interno di una mia grande confusione. Sono stato un maldestro studente al liceo, nel liceo di Giulio Cesare, un maldestro studente, sono stato male. Per motivi misteriosi la mia professoressa di filosofia era l'unica materia che andava bene, che era una liberale, tra l'altro, mi prestò, anzi mi regalò il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, che all'epoca a me mi scandalizzò abbastanza perché non avevo nessuna vicinanza, diciamo, con il comunismo, neanche con il marxismo, per cui questo libro fu interessante, però non lo capii molto, diciamo così, però ho capito molto. Quando mi iscrivo a scienze politiche ero incerto e indeciso, capivo pochissimo, avevo una sorta di blocco cognitivo, diciamo così, mi scrivo a scienze politiche e mi trovo di fronte a un'università, che non so se tu riuscite a immaginare questa università. Mi ricordo due esempi, uno è si faceva l'esame di geografia, no? Però prima di fare l'esame di geografia ti facevano entrare singolarmente in una grande stanza tutta di marmi, grandi poltrone, a bajour, c'era un docente con gli occhiali spessi, ti faceva accomodare e poi ti sussurrava mostrando una parte del mondo, cioè sempre così diceva Shamashimai, no? E tu dovevi dire che in una cartina lunga, non so se avete trovato, già se uno mi dice dove New York è una cartina lunga, non lo capite, mettete chissà che cosa, mettete. Ma noi arabi, cinesi, così, per cui tutti quanti sbagliavamo, e questo ti trattavano a dire, no, che sei un po' disgraziato. E questo era, diciamo, il primo livello di incontro. Il secondo, ancora più tragico, perché il secondo io mi ero preparato tantissimo, perché era sui paesi afroasiatici, storia dei paesi afroasiatici. Io ero appassionato su queste cose, mi ero preparato, vado lì, discutiamo, a un certo punto mi fa una domanda non diretta al testo, ma più su De Gaulle. De Gaulle all'epoca era il presidente della Francia che voleva affermare la sua autonomia dagli Stati Uniti, no? E su questo noi avevamo una discussione, una differenza di opinione. Quindi non sulla materia di programma, ma se De Gaulle facesse bene o male a essere autonomo dagli Stati Uniti. Su questa base lui guardò, prese la vena sinografica di nostro libro, a che io riprendo, adesso c'è un libretto, ma adesso mi scrisse respinto. E allora mi domandò, che devo fare, che posso fare? Rispetto a un esame del genere, io mi sono sentito respinto, sulla materia, respinto in generale, non riuscito, per cui abbandonai l'università e per una serie di casi non mi sentì, insomma, cominciare a lavorare e la mia prima esperienza con la stazione aerea che sta qua vicino, non avete presente Viaggio Litti che sta qua? Viaggio Litti guardando la stazione aerea a destra e la grande via che accompagna la stazione. Lì c'era la stazione aerea, cioè era possibile fare il check-in lì e poi andare all'aeroporto di vicino direttamente alle uscite, quindi si risparmiava un tempo, insomma, cioè c'era il suo sistema. Per cui insomma, a me mi assumono lì, io dopo aver fatto militare, dove rispondere. Allora dice, ma è possibile, io non riesco a dare una risposta a una cosa che il contadino mi dice. Questo per me è una crisi molto grande, molto grave. Immaginare contro dei contadini, ma non li posso più. Cioè di gente di che era grave e devo dire anche abbastanza salutare, quindi fu una bella fortuna perché aver incontrato questo che diventò proprio mio carissimo amico. A parte questo, insomma, dopo questo però incontrai le persone di sinistra, ecco, questo è importante. Questo contadino era una persona di sinistra. E la prima volta che incontrai una vera persona di sinistra era, non so dove, un paesino del nord, vicino Vicenza. Allora, qui entro la stazione aerea, e la stazione aerea era veramente dura, perché lì incontro tanti operai, diversi operai, però nel senso fascia operaria, che facevano lavoro manuale, e degli impiegati, al solito, impiegati sempre oscillanti, no? E le donne c'erano operai, quindi mi portava sempre davanti, no? Io non leggevo avanti, però lui mi portava avanti e mi diceva che era solo partigiano. Allora io avevo dicendo davanti, però, ti dico la verità, all'epoca leggevo Lombardi, chi stava con gli italiani, era un grande socialista, non era un socialista secondario, non era. Però insomma era veramente leggibile, però aveva la scritta davanti bellissima, la scritta fino a un progetto in avanti, ma da Genova, tra l'altro, apposta, è una delle cose più belle. Per cui comincia e insomma per farla breve mi comincia a cercare di capire che succede là e mi ha detto membro di commissione interna, che allora c'era la commissione interna, cioè dire i sindacati organizzavano la commissione interna, che erano i rappresentanti dei lavoratori, ma erano di sindacato, no? E io ero iscritto a CGL anche perché un po' perché mi sentivo vicino, non molto, non era tanto, ma la UIL era il sindacato corrotto, diciamo, dall'epoca, no? Per cui la CGL era tanto diverso, per cui il mio sindacato era CGL, quindi inizio a fare un'esperienza CGL e mi ricordo sempre la prima esperienza, io appena eletto, giovanissimo, membro di commissione interna. Che succede? Aliena, no? Licenziamento generale. Si sfascia la stazione, vengono tutti, siamo licenziati e vengono di fronte una responsabilità di più di 500 parte di famiglia, come si dice, no? Che rischiano di andare su massi, disoccupati, immaginate, stanno nel 67-68. Per cui, grande assemblea, qui vicino, ancora una volta, via via Donarodi, c'era CGL, lì c'era la sede della CGL del trasporto, insomma, andiamo lì e c'è una sala come questa, straniera di gente, e il sindacalista di loro fa tutto l'intervento, ma so meglio, il sindacalista non lo tempo, cioè lo parlo, ma poi ci dobbiamo lavorare bene, io ho preso, io che ero tutta la notte passato a fare una scaletta con questo, di quello, e non dico niente perché nessuno. E taccio e mi dà un senso di frustrazione, di colpa, veramente da suicidio, che per fortuna non l'ho fatto. Però ho imparato tantissimo perché parlare in un'assemblea, in aula è molto più facile, parli insomma, ma parlare in un'assemblea con operari, impiegati, tecnici, è veramente complicato, perché lì ti fanno veramente pulci. Tu dici una cosa leggermente sbagliata, imprecisa, che non sei documentato, hai chiuso proprio, hai chiuso lì, che non proprio, insomma, ti fanno scappare via. Per cui ho appreso, come vi ho detto una volta, la cosa più difficile che ho preso là è leggere una busta paga. Perché leggere una busta paga era ed è ancora difficilissimo, e poco lo sanno fare. E io ho preso un kit, un altro sindacalista, che diceva, persona anche lui, che era contadino, che spiegava come si leggesse appunto questa cosa. Insomma, la trattativa poi per fortuna funziona bene, riusciamo a trovare una soluzione, tanti, tra cui io veniamo assunti all'Italia, e lì l'Italia è ancora peggio, perché l'Italia, il capo dell'Italia si chiama Milani, era stato il pilota personale di Mussolini, per cui la struttura dell'Italia era veramente militare. L'Italia che la selezione fu, lei vuole essere assunto, si taglia la barba, se non si toglie la barba, lei non sarà assunto, detto così. mi sono ripreso a fare una cosa, cioè non ho ripreso a fare, accade una cosa straordinaria, quindi parlerò pochissimo. Già nel 67 c'erano le premesse per tutto questo, anche a Roma naturalmente, non solamente a Roma, non è che il 68 nasce nel 68, tanto meno quando si c'è a Parigi, nel 68, già nel 66-67, addirittura a Roma per esempio era stata occupata addirittura nel 64, Torino, l'Università di Torino si mobilita nel 66. Nel 67 quindi io personalmente mi sento già molto agitato, molto insofferente dell'Italia, ma non solo dell'Italia, c'era cioè Vietnam, c'era cioè Cerevara, delle notizie che arrivavano erano di grande emozione, e quindi ho preso improvvisamente a manifestare, per esempio, no? Cosa che non sapevo fare. E quindi diciamo, tutto questo processo esplode tutte potenzialità che c'erano, anche letture incerte, le mie letture erano molto incerte all'epoca, però improvvisamente scoppia qualche cosa che dilata la mia capacità percettiva, intellettuale, lavorosa, cioè praticamente mi si aprono, quando vi parlo di porosità, come se io mi sentissi esploso, no? Per cui il 68 è un'esperienza per me veramente straordinaria, adesso però non ne voglio parlare assolutamente, solo che io quando l'ho vissuta dentro l'università, perché ho lavorato, no? E lavorando io frequentavo solo qualche lezione, ricordo quella di Colletti a Lettere, perché poi mi sono iscritto in quest'anno a Lettere di Filosofia. E ricorderò sempre la lezione di Colletti, che era un grande filosofo, che in un'aula alla Magna di Lettere leggeva e commentava il Capitale di Marx. Dico, sinceramente, un'esperienza molto molto bella, veramente. Fu per me, cioè passare da quelle scienze politiche, quindi dicevo scienze, come se fosse, oppure il docente che leggeva, mi ricordo c'era un altro docente che leggeva le dispense, questo termine non mi è piaciuto, leggeva, alla fine si andava e si andava, cioè neanche guardare in faccia le dispense, leggeva, e che è ecco, qui invece c'era Colletti che parlava anche a braccio, leggeva il Capitale, commentava, so, veramente per me fu un'esperienza molto molto bella. Ma io che faccio? Invece io non partecipo appunto alla potenziale, purtroppo partecipavo alle assemblee, partecipavo all'atmosfera, ma lavorando e la realtà era così, lavorava più di 8 ore e mezza più in viaggio, più di straordinarie a volte, per cui da 13 a 16 ore al giorno si lavorava. A turno, anche di notte, era una cosa abbastanza dura. E lì il sindacato non era adeguato, la CGL proprio non era adeguata, e faceva un comitato di base, punto. Non solo all'Italia, in tanti posti nascono i comitati di base, poi dei lavoratori si uniscono di base per affermare i loro diritti che i sindacati non riuscivano a fare. Per cui grande esperienza nei GUP, sono espulso, sono andato alla CGL per un po', poi l'esperienza del ciclo stile, del volantinaggio, non so se qualcuno di voi l'ha mai fatta, ma certo fare il volantinaggio fuori una fabbrica, la 6 mattina, con la neve, eccetera, il freddo, dare questi volantini che si avvicinano, in cui noi avevamo scoperto una cosa per me importantissima, che era la job evaluation, che adesso non mi sono detto, delle cose è veramente un'esperienza forte. Il volantinaggio è stata un'altra pratica che mi ha formato non solo politicamente, ma direi proprio nella relazione con l'altro, perché il volantino non era solamente darlo, era anche cercare di parlare con l'altra persona, con l'operario. Insomma, mi scrivo a filosofia all'epoca, e questo mi permette di dare una prima riflessione. All'epoca, per fortuna, sotto le spinte del 68 c'è una riforma universitaria in cui c'è una riforma universitaria per cui si possono fare piani di studi individuali. Ora, la cosa che volevo dire, voi avete dei piani di studio coatti, e trovo inaccettabile che in Italia voi scelto di dare l'obbligatorietà di regista degli anni studi. E lui, lo studente, ha una scelta veramente molto, molto diversa. Questo lo trovo sbagliatissimo, arretrato, anche rispetto all'altra università, in cui lo studente può, anzi deve avere, la possibilità di affermare che se vuol fare una tesi di musica e antropologia posso fare fisica, perché se a lui la fisica è un momento fondamentale per la musica e lo dimostra, deve essere appoggiato per fare questo. E se vuole mettere comunicazione, informatica e biologia molecolare, lo può fare, anzi lo deve fare. Perché? Allora, questo aspetto, che all'epoca certo un grande casino all'epoca, ma tra il grande casino effervescente e questo dirigismo degli anni di studio, io credo fermamente che dovremmo, e purtroppo dovreste fare qualche cosa per affermare una autonomia di ricerca di ciascuno studente, seguito da un tutor, e che i professori facciano il tutor, che ti consiglino sulla base delle loro esperienze e non che ci siano questi dirigismi. Beh, insomma, questo per dire, davvero c'erano gli esami biennali, non c'era controllo, perché io l'intento, faccio 6 esami biennali. Cioè, 6 esami biennali, cioè, faccio veramente 12 esami in 3 sessioni, una cosa del genere. Quindi avevo qualcuno che diceva, cioè, veramente io quasi 2 anni di laurea. Cioè, più o meno, non è proprio così. Quindi sono eletto di nuovo all'Italia, membro, questo lo rivendico con grande orgoglio di verità, membro del Consiglio di Fabbrica. La commissione interna era fatta dagli operai, impiegati scritti che votavano per un sindacato e per un candidato. Cioè tu sei scritto alla CGL e voi per uno che è candidato. Non puoi votare per me che sei fascista. Questa era la concezione della rappresentanza sindacale, vedete? Molto strutturato. Dopo il 68 nasce il Consiglio di Fabbrica in cui lui, tutti voi, potrebbe votare per chiunque, cioè non ci sono candidati e né liste. Capite? Quindi si afferma una concezione molto avanzatissima di quella che è per me democrazia consigliare, no? Che è basata su una delega temporanea per cui io fui eletto a scheda bianca, io con altri due miei componenti, non perché eravamo candidati, ma perché facevamo un lavoro e eravamo riconosciuti. Questa io credo sia una forma avanzatissima di democrazia. Dovrebbe essere così anche per i rappresentanti degli studenti. Non solo così, dovrebbe essere così. E insomma, dice tutta una cosa da dire, deve essere proprio normalmente, ma solo per dire che cosa succede. Nello stesso tempo, io studio scopro la storia di Marco Polo. E in particolare scopro un libro che pensavo di portare, non l'ho portato, che è un aspetto felice, diciamo così, personale, una lezione che si chiama La dialettica dell'illuminismo, un libro che Adorno e Horkheimer hanno scritto insieme durante la seconda guerra mondiale. Cioè c'è la seconda guerra mondiale, c'è la catastrofe, loro di matrice ebraica, voi immaginate, e che fanno, scrivono un libro per frammenti, perché erano entrambi già critici sulla dialettica sintetica, per frammenti in cui cercano di capire che la razionalità occidentale, che loro chiamano ratio, la latina ratio, la ratio, che si è affermata appunto in Occidente, ha dei problemi proprio immanenti all'interno della sua logica, per cui il nazismo e il fascismo, ma anche lo stalinismo, il capitalismo, cioè, insomma, questi modelli autoritari non era possibile spiegarli in chiavi solamente economica. Questo per me è stato un senso di enorme liberazione, perché all'epoca era egemonico il marxismo, il fascismo, sì, c'è stata la crisi economica, la prima guerra mondiale, sì, la guerra tradita, eccetera, eccetera, la guerra tradita, la crisi delle campagne, il capitalismo perde, per cui sì, questa è la spiegazione, il nazismo e il fascismo sono stati più complicati che risolvere le questioni economiche. Forse è stato solo questo, magari. È stato qualcosa di molto peggio. C'era una crisi dentro la razionalità dell'Occidente. e il rapporto Cortesi hanno cercato, lo cercano, di capire dove sta questa crisi della razionalità occidentale, quindi, e quindi sono sprofondati nella quella che loro credono la origine della, di questa nostra civiltà e della nostra ragione. E il saggio su Odisseo, che noi chiamiamo Odisseo, il saggio di Odissea è stato veramente fondamentale, una straordinaria lettura su l'Odissea. Se viene a scuola si legge Odissea, poi si legge un po', si legge se ci piace o non ci piace, però il modo in cui loro si riferivano al rapporto tra questo soggetto, che la donna Arcani era il soggetto che era il campione della razionalità come razio oggettiva, si trova di fronte a una serie di sfide, e rispetto a queste sfide ogni volta si affermava non solamente contenendo, ma dentro un modello che era quello della autorepressione, tanto più reprimeva i suoi istinti, anche la sua propria emotività, e tanto più si affermava. Quindi il modello era autorepressione, autoaffermazione. Tanto più mi autoreprimo, tanto più mi autoaffermo. Questo era il modello. Ci sono delle pagine straordinarie, insomma, ve ne cito alcune, ricordo Polifemo era chiamato l'essere dalle culture illegali. Illegale, Polifemo, da Omero, era illegale, era fuori dal logos, era fuori dalla legge, perché era molto solo, tra l'altro, e poi era contadino. Non so, adesso non devo entrare nei dettagli, forse l'esempio più bello, anche nel romanzo di Luisa Valeriani, è l'analisi su Odisseo che sta legato al palo della nave, mentre i suoi compagni hanno ricordato le orecchie bloccati dalla cera, non sentono, e qui vede questo il meccanismo del potere della divisione del lavoro. Allora, Odisseo è il campione dell'aristocrazia che può non lavorare, e potendo non lavorare, perché ci sono gli altri che lavorano da lui, i rematori, che hanno i sensi ottusi, bloccati, lui viceversa può godere l'espressione estetica. Allora, il canto delle sirene è così potente dal punto di vista dell'arte perché implica l'abbandono, l'impossibilità del lavoro. E lui gode, soffre e gode di questo ascolto del canto e si forma come soggetto, perché il soggetto si forma grazie all'esperienza dell'arte, del canto, mentre invece i suoi compagni costretti con i sensi bloccati a remare. Quindi, il senso dell'arte, dell'estetica, anche se poi del soffrimento, ma anche della repressione, l'autorepressione, implicava un meccanismo di autoaffermazione. Mi reprimo e mi sviluppo. Questo meccanismo sta dentro, come diceva la storia occidentale, e l'ho analizzato su Odisseo e anche su altri testi. E poi naturalmente l'industria culturale, che era un saggio ed è tuttora, probabilmente se il calcolare è fatto nel 43 e nel 44, loro capiscono, qui la divisione nascente, i meccanismi attraverso cui l'industria sussume la cultura. Perché all'epoca l'industria culturale non si poteva dire, non so se vi è chiaro questo, all'epoca all'interno del marxismo ufficiale e non, cioè ufficiale e non, l'industria culturale era un non senso, era una del capito nulla, perché per Marx c'era l'industria che era la struttura e c'era la cultura che era solo la struttura. Nello schema costruito del marxismo la struttura determinava solo la struttura e tutti erano contenti. Marx all'orno e gli organi capiscono veramente così, già Marx lo ha detto in questo modo, ma i marxisti tutti parlavano in questi termini. Le cose erano molto più complicate. Allora, vedete che all'interno del processo industriale si sussume il processo culturale, era una prospettiva di innovazione. se volete, loro hanno molto di conflitto perché erano pessimisti, d'altronde nel 44 non è molto facile essere ottimisti, ma il conflitto era determinato non solo nei luoghi del lavoro, capite? Il conflitto era determinato anche sul destino della produzione, di cui è importante, abbiamo parlato su Fonica. Che destino ha la produzione? È possibile che questa produzione per produrre cultura debba sempre essere deviata da un'altra parte? È possibile che non possa mai incrociare e realizzare la sua missione, diciamo, e sviluppare l'erotica, il desiderio? E c'è sempre l'invio, sempre l'invio, sempre autoreflessione? E ancora, anche la cultura è un momento del conflitto. E anche la cultura che poi si chiamerà maschile. Non è una cosa che deriva dall'economia, è economia, capite? È pregna di processi di valorizzazione. Quindi loro stavano veramente decenni avanti a qualsiasi altra chiesa, decenni. Capite? L'industria culturale è una chiesa migliare rispetto alle ricerche che si facevano in chiave psicologica, non so, eccetera, poi loro stessi sono stati accusati di non fare ricerca. Cosa assurda, la ricerca implica sull'industria culturale cose che abbiamo alzato e non si sia mai fatto. Poi c'è un altro, il loro sorriso. Che vuol dire ridere? Qual è il meccanismo della risata? Loro citavano il fatto che il capomale nazista facesse ridere i suoi compitori imitando le prego. Allora loro si sono chiesti, che cosa vuol dire far scatenare questo cratere, la bocca che ride, una sorta di vulcano da cui esce una lava piena di discriminazione, che cosa vuol dire trasformare il riso in deglizione, deridere? E perché appunto il capo popolo si volesse identificare con quello ebreo? Perché questo facesse dire? Sono tutta una serie di meccanismi di sorriso di cui loro veramente erano stati sottili interpreti e si riferivano a un libro che non so se qualcuno l'aveva incrociato, si chiama L'uomo che ride di Vittor Hugo, non so se l'avete letto, L'uomo che ride è un libro straordinario di Vittor Hugo in cui Vittor Hugo fa penetra dentro questa psicologia del riso, la crudeltà del riso. Si accompagna ad altri elementi liberatori del riso normalmente, ma c'è una matrice che deride, che fa deridere il riso, che trasforma un riso, diciamo che visivo, un liberatore c'è in qualcosa di perverso. Ecco, le analisi sul riso sono altrettanto belle. Insomma, tutto questo per dire che accanto a questi io mi ero formato su Marcuse, ecco, Marcuse cercava di dare la soluzione a quello che dicevo di Freud, cioè qui analizzò il dettaglio e in era società diceva è possibile questa funzione che produce cultura perché si reprime, si autoreprime, possibile che non può trovare un altro destino, cioè possibile che non si possa immaginare produzione di cultura che include la funzione. Cioè una costruzione culturale, una liberazione culturale che include, non reprime, non devi la funzione. E questo è un libro che è molto successo, ovviamente continua ad amare profondamente, Marcuse probabilmente bene, non parlo tanto, quindi di Fromm, solamente il primo Fromm io mi piaceva molto perché faceva, era un psicoanalista, faceva ricerca dagli operai, perché Fromm aveva capito, era diretto da Horkheimer, che la classe operaia non è vero che liberando se stessa liberava l'intermodalità, perché la classe operaia aveva una serie di valori che erano a volte peggiori valori, peggio di quelli borghesi, omofobici, sessisti e desiderio. Allora Fromm, già negli anni 30, faceva un suo questionario, faceva stabilire dei rapporti, delle relazioni tra le case, gli operai per cercare di capire quelli che erano i loro valori. vita, andare in Siberia, sono via. All'epoca dire una cosa del genere significava Siberia, cioè fuori da qualsiasi legittimazione. Non era possibile dire questo, perché loro dicevano, per questo i francofortesi si trovano contro tutti, si trovano contro i marxisti ufficiali, si trovano contro i nazisti, la scuola nazionale, insomma, era veramente un gruppo isolato. Beh, a me tutto questo per dire che a me avrebbe fatto piacere, quindi arrivo alla prima immagine, forse, avrebbe fatto piacere che Adorno suonasse una fabbrica, che era il modo di dire l'antecatrica. La teoria critica di Adorno e degli altri, poi entrare dentro la fabbrica, trasformare la fabbrica da luogo di alienazione, depressione, anche di valori che non abbiamo visto, arretrati in qualcosa di altro, per suonare, si può suonare all'interno della fabbrica qualcosa di altro, insomma, io l'ho detto totalmente, fatto naturalmente, su quello di cercare di connettere la teoria critica alla nostra fabbrica. E qui inizia veloce il caso. Qui sono una serie di casualità. Già me ne ero capitato in passato, non so, a volte mi cade una cosa veramente puro caso che o si acchiappa o non c'è niente da fare. Allora, una delle mie formazioni, quando mi parlo di stupore, eccetera, è proprio perché a volte può capitare casualmente che si offre, a me mente si offre, un'occasione. Allora, quando capita l'occasione, noi dobbiamo cercare di prenderla, di viverla e di portarla avanti. Per cui io continuo a fare per tutta la vita, insomma, le cose del caso. Il primo caso, mi era già successo in Italia, adesso non vi racconto, il primo caso è stato sull'antropologia. Cioè, io mi laureo sulla storia di francofonte, infatti mi danno il lavoro strano, che io non presento la tesi come faccio, come si fa al mio docente, io gli la presento tutta intera. E questo qui che era un canchiano tipicissimo, si deve presentare all'interno, ma è molto stupido, in un altro senso forse, però poi c'erano dei critiche molto a Kant, e poi prende 119, cosa che per me neanche mi aspettavo. Poi alle lettere, a filosofia, la discussione era in un'altra volta, su una grande sala, c'era il presidente che stava in alto, su una specie di trono di marmo, tutti gli altri più in basso, insomma era veramente una cosa. Si sta controllando il flusso d'aria. Abbiamo visto anche ieri. Ma dopo passa? Si passa. Finisce di controllare? Ma l'aria? L'aria è più, diciamo, classico, l'aria. Ieri c'è tutto che è passato, ecco. Gli è passato, fucciato. Insomma, una mia amica, una amica del 68, era una venezuelana, quindi amica tua quasi. Dice, senti Massimo, io so collaboro con il professor Carinario, però io ne voglio andare, vuoi andare tu? Io mi ero laureato, ma io lungi da me era già andare all'università, io mi sono laureato a 32 anni, quindi molto molto in là, mai avevo pensato di andare all'università. Pensavo a un certo punto di lasciare l'Italia e insegnare filosofia nei licei, meno male, non fa questa mi dice, ma io sono andato a Carinario, che il nostro professore insegnava all'epoca sociologia, è andato in pensione, però credo che insegni ancora da qualche parte a Pomezia. E insomma incontro Armando Carinario e discutiamo e scopriamo che abbiamo delle cose in comune. E lui mi invita a collaborare con la cattedra, io non accetto, quindi faccio lavoro all'Italia, lavoro all'università, faccio il lavoro, insomma, collaboro all'università. E mi ricordo il primo seminario, voglio parlare del professionale un po' importante, il mio primo seminario era autonomia individuale e autonomia di classe. Autonomia individuale, perché significava all'epoca il concetto di individuo trovavano opprimente e tradizionalista. Quindi i francofontesi difendevano l'individuo che stava sparendo, dicevano. E quindi affermare l'autonomia del soggetto per me era fondamentale anche all'interno di una visione, se volete, rivoluzionaria o semplicemente di vita quotidiana. Per me era significa affermare costantemente l'autonomia dell'individuo. C'era anche Nietzsche che diceva delle cose affini, parlava di individuo, una cosa semplicemente diversa, no, insomma, e poi c'erano, mi sfugge un riferimento, già c'era un'anticipazione di quella che poi diventerà il concetto condiviso che ho presentato precedentemente, che ha, diciamo, come matrice la critica che critica il diritto. Poi c'era la teoria di classe, che è delle cose che adesso non mi scorgono, insomma, più o meno la classe doveva essere autonoma dal ciclo capitalistico, questa era, diciamo, la prospettiva. Scusate, la cosa più importante. In un pezzo fondamentale di Marx, che si chiama Condutriste, che fu pubblicato molto tardi, fu pubblicato negli anni 60, di Daga, in queste Condutriste c'erano dei frammenti sulle macchine importantissimi, ma c'era anche un capitolo in cui Marx parlava di individui autonomi, faceva il discorso dell'autonomia individuale. Allora, certo, i contristi sono usciti dopo la seconda guerra, però, ma come mai tutti i marxisti, ma ancora più di adesso, più o meno i sopravvissuti, continuano a negare il valore fondamentale dell'individualità nei processi di trasformazione, quando lo stesso Marx ha affermato con forza l'autonomia dell'individuo? Questo per me è sempre una cosa misteriosa. Questo arriva al 75, adesso diciamo questa prima parte è un po' più incrociata, poi dopo parlerò più teoricamente. Poi un altro caso, Vasarelli, che era una casa editrice di sinistra, era una casa editrice molto avanzata all'epoca, Vasarelli mi chiede, anche questo per caso, di pubblicare un libro sulla famiglia. Cosa che per me era meraviglioso, anche per come lo usare bene, è raro che l'editore di dire dopo pubblicare un libro, cioè non succede. Io poi ero, insomma, avevo, e quindi mi viene in mente di fare un reading, che non si chiamava, cioè citazioni di massimo 10 pagine di autori, molto di discipline diverse, no? Conosciamo tante discipline, che non è appunto dialettica della famiglia, e che la terra poi c'era la tendenza a dire distruggiamo la famiglia, non so se qualcuno di voi c'era una tendenza, questo tipo, io non sono mai stato d'accordo su distruggiamo la famiglia, sono sempre stato d'accordo a trasformiamo la famiglia, cerchiamo di eliminare le forme di dominio, per cui quando io parlavo del doppio vincolo, per me il doppio vincolo è una delle forme potenti di riprodurre il dominio all'interno delle famiglie. E poi questo, quindi, altro caso, che in un ulteriore caso, questo è il libro, vedete, uscì in questa maniera, valida, e questa è l'edizione brasiliana, perché? Perché ancora un caso io stavo, mi ricordo, ma a un certo punto mi arriva il libro tradotto in Brasile, una cosa proprio brasiliana, arriva a casa il libro tradotto, cioè nessuno sapeva, io non lo sapevo, il libro non lo sapeva, non lo sapeva nessuno. Ma chissà come la trovava l'indirizzo, adesso non mi ricordo, ma la di tutte. E io mi è arrivato il libro tradotto. Ma che è successo? E chi lo sa? Era successo poi, lo scoperto dopo, che l'editore, che è una figura poi importantissima in Brasile, è Caio Bracco Prato, era il figlio di Caio Prato, cioè il grande oppositore alla dittatura militare in Brasile, il primo studioso marxista dell'economia brasiliana, insomma, un autore tra i più significativi del Brasile, con cui poi abbiamo conosciuto la figlia recentemente, passione, io Carimatos, che non mi puoi conoscere, ma filosofa, e praticamente io vengo guidato, altro caso, in Brasile. Quindi capite, una serie di casi, per caso mi vengo guidato all'università, per caso mi vengo guidato un libro, e per caso mi arriva il libro tradotto in Brasile. Cioè, ma chi può pensare a una cosa del genere? Cioè, se uno si mette a fare delle strategie, vedete, ha perso. Per cui io vado a San Paolo, ma San Paolo è la mia esperienza, San Paolo per me è fondamentale, perché a San Paolo io già stavo in crisi con i miei paradigmi, specialmente il concetto di dialettica, il concetto di partito, il concetto di identità, tutti i termini fondamentali io già avevo capito come funzionava. E in Brasile gli si favorisce la possibilità di abbandonare un'esperienza per me totalmente altra. Totalmente altra, un'esperienza che stavo solo, quindi poi vedremo il concetto di solitudine. Quindi è stata un'esperienza forte, veramente forte, importantissima. Allora cominciamo a pensare che forse questa dialettica, questo meccanismo dialettico, non è che funzioni proprio così bene. Un certo anche il partito, tutta una serie di concetti, e lì è stato il processo che porterà altri concetti, tipo polifonia, sincretismo, dialogica, che magari hanno anche altre matrici occidentali, ma che lì in Brasile avevano per me un significato diverso e che verranno elaborati in modo diverso. Allora, questo è il libro più felice che abbia mai scritto, non solo del cinema. Mi piace la copertina, no? Che l'avevo pensata io, l'avevo messo perché pensavo ci fosse una relazione tra sotterranea di mutazione tra la maschera e lo schermo. Non che lo schermo fosse la maschera, ma che ci fosse una sotterranea, complessa, io direi adesso ibrida, relazione. Per cui il cinema non è solamente cinema, il cinema forse a volte ci faceva sprofondare in dimensioni arcaniche. Questa era la maschera di Agamennone, di cui una volta avevo parlato, il cosiddetto falso Agamennone, che era importantissimo, e tuttora lo è, perché per dare l'immortalità al re, a mettere questa sfoglia di oro molto sottile al cadavere, viso nel morto, assumere quindi la fisionomica, la fisionomica non fa, per cui il corpo è vacante, si decompone, ma questa foglia, sfoglia di oro, mantiene l'identità aurea indistruttibile ed eterna del re. Quindi era una riflessione insomma, che a me piaceva molto questa, e poi diciamo, è una mia fissa, diciamo così, la riflessione sulle maschere. Però sono stato veramente un disastro. Arriviamo agli anni 80 e qui arriva da noi Tullio Tentoni. Io spero che voi lo conosciate. Tullio Tentoni è stato il padre dell'antropologia culturale italiana. Cioè, è stato il padre dell'antropologia culturale. Cioè, in Italia c'è una tradizione folclorista che si chiama, anche si chiamava, che si chiama ancora antropologia culturale. Poi però è tradizione popolare, no? La processione, il proverbio, se devo restare nei paesi, la saga delle castagne, tutte queste cose qua. Io non mi interessa proprio niente, proprio non riesco a trovare il mio interesse veramente sulle tradizioni popolari di questo tipo. Poi c'è l'antropologia, ma l'antropologia culturale di matrice statunitense era sempre. Tentoni ebbe il merito di portare questa materia da noi. La portò, era stato negli Stati Uniti e poi venne appunto, io ho fatto l'esame con lui, ho da studente, e organizza negli anni 80, negli anni 80, il corso convegno che era antropologia presso la complessa, che era un termine che già all'epoca non funzionava, capite? Perché Tentoni voleva dire l'antropologia culturale fa ricerca anche nella nostra cultura. cioè, ma nessuno nella società. Capite? Allora questo problema era veramente già molto molto grosso. Nello stesso tempo il convegno però è un successo di ogni punto, vengono tantissimi studiosi, non solo dall'Italia, tutti i docenti italiani sono presenti, moltissimi anche da altri paesi, veramente un grosso successo al Museo di Roma, vicino, abbiamo fatto vicino a Piazza Navona. Solo che Tentoni, che io voglio bene da morire, molto recentemente, mi dispiace tantissimo, ha la platea, la migliore platea, più giovane, attenta, di antropologi italiani, non parla e parla per un'ora su Cattaneo. Cioè che la cultura, come l'aveva sentito Cattaneo nel 1848, era importantissima. Sì, Cattaneo d'accordo, poi dopo Cattaneo, insomma, c'erano delle cose che hanno messo in crisi definitivamente come l'antropologia. Ovviamente, adesso che stiamo facendo una crisi grossa, anche perché allo stesso tempo, che devo fare per non bere di mano? No, no, non c'è proprio il produttore, diceva solo. Nello stesso tempo, negli Stati Uniti ci sarà un seminario importantissimo, comunque nello stesso anno, che si chiama Writing Culture, cioè sulla scrittura delle culture. Allora ci troviamo, capito, di fronte in Italia grande progetto, grande volontà di cambiare, e si affrontano temi veramente a carattere di cose realistiche. Negli Stati Uniti convegno su scrivere culture che si rinnova proprio così, parzialmente, ma si rinnova. Per cui, diciamo, c'è questa differenza molto forte che ci dà dei nostri problemi. E il mio problema ovviamente di meritocrazia è che faccio la prima ricerca empirica in senso stretto, questa era sulla città polifonica, io non avevo chiaro il concetto di comunicazione, lo dico sinceramente, però vivendo e cercando di capire San Paolo, avevo capito che la comunicazione, il suo video infatti è un saggio sulla comunicazione urbana a San Paolo. Ora, per chi ha messo comunicazione, non lo so, io insegnavo sociologia, la comunicazione non era ancora una materia fondamentale. Però ho capito che la comunicazione in una grande metropoli era fondamentale. E per capire San Paolo, così come per capire Roma, non era sufficiente la società, e neanche la cultura, ma la comunicazione. Capito? E la comunicazione significa tante cose, la pubblicità, l'architettura, gli stili, la moda, per esempio. Quindi per me è uno dei libri che più sono affezionato, e cioè è uscito prima in portoghese, in Brasile, e poi mi fa piacere che è un libro che ancora viene utilizzato in tante università, per cui c'è il fatto che io, romano, scrivo un libro su San Paolo, città complicatissima, e che questo libro è ancora un libro di testo nelle università di architettura, antropologia, comunicazione, per me veramente è l'unica cosa che posso dire, ne sono proprio contento, veramente bella bella. Anche queste sono copertine che erano mie, l'idea mia, vedete, qui era un sincretismo, vedete, c'era, questo qui era un edificio di architetti che mi piaceva molto, e sotto avevo messo un'immagine indigena, quindi mix di no, culture indigene, culturale, questo mi interessava sia qua che anche più che da San Paolo. Di nuovo bocciato, quindi io ho uscito dal caso da procedura, a me non bocciare di nuovo. Si fanno i concorsi, si fanno i concorsi per antropologia e poi bocciamo. Una, due volte, però se prendi, ma sono anche due, sono decido di sentire, vuol dire che comincia a capire una cosa che non mi spiegherò mai, come funzionano i concorsi all'università. Perché se credete con misteri, vi posso dire sinceramente che è un mistero, nel senso che dovete essere introdotti dopo un lungo periodo. giurista può capire come funzionano i concorsi in Italia. E guardate, qui non c'entra la Giardini, c'entra la Giardini e c'entra la Regione di Cuneo. Quindi non è semplicemente destra e sinistra, è la cosa più profonda sui certi limiti della nostra economia. E quindi è proprio ciao. Cioè, per cui io rimango. Per il vecchio ordinamento e per l'insolvenza. Sistemi, quelli dei crediti, faremo la metà stamattina e la metà di pomeriggio. Comunque oggi la tua casa e ti faccio la mini sulla tua camera. Perché Erasmus, adesso su te non voglio fare la fila, parlo di Erasmus. Entonces, estudiantes Erasmus entregan el 25 de noviembre el PowerPoint en la cátedra del profesor. Tienen que hacer un cuadro teórico sobre qué es fetichismo usando los conceptos del libro y los conceptos expuestos en clase. Y una parte práctica que eligen ustedes, pero que tienen que escribir para ver cómo van. Si tienen problemas con el idioma, yo no les voy a servir de traductora simultánea, pero obviamente podemos leer párrafos, podemos resolver las dudas. Recuerden que son hasta 25. Gracias. Terzo teatro, cioè dopo un teatro ufficiale, è stato dato guardia, terzo teatro, è stato Eugenio Parma, pugliese che era andato in Danimarca, a sviluppare questa concezione del terzo teatro, molto basato sul corpo, sulle culture diverse, insomma, rinnova profondamente il teatro, che io vi ho detto più volte, il teatro di parola, il teatro scritto, non lo sopporto. E allora ho partecipato a diversi seminari, dove venivano danzatrici dall'India, dal Giappone, insomma, era veramente un laboratorio di grande importanza. Allora che mi viene in mente che la didattica non può essere semplicemente la didattica che io ho visto le cose, poi studiate, poi vedete, naturalmente anche questo, ma non solo questo. Mi era venuta l'idea appunto che la didattica, per far capire bene un rituale, per esempio il funerale d'oro, è fare una performance. Per cui gli studenti, insieme a me, naturalmente, anche i classi indietro, rappresentavano un rito, un aspetto di una cultura. Era venuta questa idea e la prima volta di fare l'intervento al Torcelli, naturalmente era la mia assistente, era la regista, la regista qua, presente, e posso dire la cardinalità? Aspetto un secondo figlio, quindi io... Mito delle situazioni. spettatori non lo sapevano, quindi noi rimaniamo tipo 5 minuti così, a un certo punto c'è un ragazzo che ha carbone, sbloccò questo del salita, e poi ci mette tutta, sulla prima esperienza grande casata, però molto significativa, diciamo. Poi facendo anche qui ci sono, cioè, anche a Torella, Danilina, nelle esperienze di Susa Cobra Malinowski, cioè anche lì il modello era Malinowski rappresenta un servizio, no, sapete, non avvocato, scrive questo libro straordinario Diagonali del fascismo, il Kulan, cioè, il primo grande antropologo, poi scrive il piano, quindi c'è una scissione. Allora rappresentiamo la scissione, no? Facciamo l'opera Malinowski. Io facevo Conrad, che in qualche modo cercavo di smuovere Malinowski, perché insomma era doppio, cioè Malinowski Cacciarone, che è quello che chiede i desideri, insomma, che fa, che sognava le proprie tesi pubbliche, quello che era chiesto. Insomma, era fatto bene, c'erano così entrambi dal vivo, c'erano tre ragazzi, di cui due miei studenti, praticamente nudi, con delle partite lunghissime, hanno messo i computer che già avevano funzionato con delle assi oscillanti, quindi facevano delle musiche, poi da Torella c'era anche il ballavo, la danza del culo, insomma, al teatro con la scena l'abbiamo fatto, pensare al teatro la scena, no? Ne abbiamo riempito per due sere, tutto il caso, una cosa che è molto bella, ci piace. Poi continuiamo a fare il corpo corato, che mi piace altrettanto, un rituale sciavante questa volta, con un racconto di Kafka che si chiama Colonia Penale, non so se nella Colonia Penale racconto poi dicevano, ma tutto il tempo conoscevano, un fatto che stiamo facendo, Sandman, che è l'uomo di sabbia, questo racconto di Hoffman, su cui poi Freud ha scritto il famoso saggio perturbante, di cui parte anche parlato, e che ci fa l'introduzione, no? Che ci dice, per cui la cosa che a noi ci interessava, a me c'era, era come dare il senso dei feticismi visuali e come mescolare etnografia e coreografia. E adesso sono in mezzo di un pochettino, insomma, se volete, forse riusciremo a farlo a Spoleto, magari mi trovo a Tiso, però forse riusciamo a farlo anche qua vicino. Insomma, questo era però un aspetto, ecco qui vedete, questo è, ho messo le immagini, alcune immagini di Lomar Malinowski, c'erano degli studenti di Belle Arti che non so come sono venuti a un certo punto, e hanno cominciato a fare delle maschere molto belle, anche con un'osciografia, questi sono musicisti, vedete? E loro costruivano, e allora erano i colonialisti, diciamo così, no? E costruivano in diretta una specie di museo che rappresentava il potere. La scena è molto bella, tutti applaudivano, veramente. Poi era venuto un pazzo da Formia, che io avevo conosciuto, e ci portava tutte le opere sue. Poi a un certo punto entravo in queste opere d'arte, e questo sono io che faccio. nello stesso tempo, io oggi, che l'ho fatto stamattina, mi sono graffiato, perché poi già scelto quanto l'ho fatto, perché oltre a fare i libri, facevo tutte queste traduzioni, cioè non è che le facessi io, ma favorivo e poi le revisionavo, si dice. Per cui molta dell'antropologia, della sociologia importante, è stata tradotta in quegli anni, da me, diciamo, ecco, vedete. Marcus Fischer esce nel 94, Antropologia della vita culturale, un libro bellissimo, è stato anche libro di testo, prima dalla Nanda, si chiede un tema. Federston, che è un sociologo importantissimo, lui aveva studiato in modo originale il postmoderno, e eravamo amici, insomma, facevamo delle cose insieme, e questo libro del 94 dava una prospettiva del postmoderno nuova da quella. Poi cultura globale c'erano autori che all'epoca erano veramente sconosciuti, era Padurai, nell'epoca nessuno conosceva Padurai, capite? C'era Giddens, c'era chiama quella del corso delle pensioni di Bauman, c'era Hannes, ciao Rita, ti ringrazio tanto, ciao Carmen. Insomma, questo libro di Federer è stato importante, lui venne anche a Roma, poi Rosato, vedete, Cultura e Verità, un altro libro fondamentale dell'antropologia, e poi Suave, in cui molti che stanno qui sono stati collaboratori di Avatar, la lanciamo all'inizio del 2000, una rivista che all'epoca, io ricordo, dicevo Avatar, nessuno capiva niente, ma Avatar, nessuno capiva. Adesso Avatar tutti sanno che cos'è, però veramente questo adesso lo dico con un po' di orgoglio per tutti noi che stiamo qui, noi stavamo veramente in avanti, stavamo dando il senso dove la comunicazione, l'etnografia, le arti si stanno incrociando e che il digitale, la comunicazione digitale stava favorendo questo processo. Quindi Avatar per noi era veramente un'esperienza, secondo me, veramente straordinaria, che è finita quando poi per tante motivi. Insomma, già in questo periodo noi traducevamo anche autori importanti e per esempio. Beh, in questo periodo esce anche Sincretismi, che è un libro in cui io sono affezionatissimo. Anche questa ha tutta una storia che viene pubblicata. Esce anche contro Extreme, che è sbagliato X per essere più grossa. Era il periodo in cui c'erano i rave. Come si fanno? Si sono perché non è normale? No, non è, dovrebbe essere normale. Cioè non è normale che non mi scrivo. No, è il proiettore che ogni tanto è programmato così. Ce lo dovremmo risettare così. Vabbè, intanto lo preparo mentre hanno tutto l'estreme, dicevo, si basava sulle esperienze di tanti aspetti culturali degli anni 90, di rave, molti di studenti hanno veramente inventato il rave a Roma, quindi anche l'Italia, una delle esperienze per cui tanti andavamo cercando sia di divertirci, ma anche di capire quello che si sta accadendo. Insomma, anche questo è un libro interessante. Ecco, questo è l'immagine. Anche qui, un omaggio a Danielina, c'è da dire, questa è una fotografia fatta a Torre della Monaca. Danielina ha fatto un libro, l'unico bellissimo libro sul writing, che si chiama proprio Writing. Cioè, era la sua tesi di laurea, lei si laureò facendo una ricerca sui graffiti a Roma, di solito a Roma, poi addirittura a Napoli, Milano, e partecipavamo a un'iniziativa molto interessante a Tor della Monaca, dove vengono graffitari da tutto il mondo, vengono graffitari e c'erano anche questi gruppi di artisti, chiamavo così. Io nel fotografai, poi immagine che ha così tanto, una specie di mattino un po' maciupato, mi piacque e l'ho messa come un cortile. Ecco, anche la vediamo. Ecco, questo vedete alcune copertine di Avatar. E quindi arriviamo nel 2000. Nel 2000, negli anni 2000, bisogna entrare il 2000 proprio, un anno veramente incredibile. Voi sapete, metto sempre su queste cose, poi tutti anche con il 2000. Però il 2000 era veramente attivo, nel senso io qui ho fatto lezione al liceo Empire, più di 1000 studenti. Ora voi potete immaginare fare lezione, io quando entravo dentro c'era proprio un calore, la gente stava in silenzio, stava seduta per tutto, la galleria strapiena, caciara, insomma, come si fa a fare una lezione con 1000 studenti? Io quando entravo là, guarda qui, veramente la palla spacca, nel senso che non potevo più fare lezione come si faceva normalmente, non campo dell'idea che sia giusta che l'università sia aperta a tutti. Il campo dell'idea che l'università in Italia non debba avere i numeri chiusi, ma debba svilupparsi. E se i docenti sono pochi, si facciano altri docenti. E gli spazi sono pochi, si facciano altri spazi. Ma chiudere l'università a chi la vuole fare è un errore. È un errore. La università deve essere aperta. Questa è la bellezza dell'università. È anche questo il problema. E comunque, diciamo, questo mi dicevo veramente. Ma peccato, qui volevo far vedere, queste sono le immagini corporali, vedete? Qui c'erano le studentesse che si erano travestite da scialante, facevano una danza rituale, una bellissima, per circolare. Stavamo in uno spazio molto bello sulla Pietralata, che una mia amica mi aveva dato praticamente, anche lì strapieno, per due giorni, ricordo, la gente non riusciva a entrare. E qui una che a un certo punto aveva detto che era coreografa, prese le mani, sempre il caso, io ci credo, no? E fece questa coreografia in cui vedete loro facevano il ritmo dell'acqua. C'era Maurizio Mattuscello, che adesso è un grande, anche all'epoca, un grande musicista di musica elettronica, dal vivo suonava, poi c'era un altro che proiettava in diretta le immagini, c'era lo Sparaconcetti, non so se lo conosce lo Sparaconcetti. Sparaconcetti è, tu scrivi su un computer una frase e questa frase viene sparata su delle immagini. Lui aveva non so quanti schermi in cui c'era Sparaconcetti, c'erano i documentari, c'era veramente una cosa fatta senza soldi, senza una lira, che nessuno ci ha mai dato una lira su questo. Anzi, noi con il, facevamo pagare tipo, che ne so, tipo 2000 lire all'epoca. Con i soldi guadagnavamo, andavamo sempre a fare i sempre. Non perdevamo e né guadagnavamo una lira. Guardate che la cosa più bella che vi posso augurare è non guadagnare e non perdere una lira. È bello, ma la sicura è una grande esperienza. Qui vabbè, questa è una parte per me dolorosa. Io già vi ho parlato che l'università ha un malessere profondo in Italia e che questo malessere probabilmente ha uno dei nodi centrali nei dottorandi. Come si scelgono i dottorandi, la selezione dei dottorandi, la formazione dei dottorandi che è nulla, cioè non c'è formazione dei dottorandi, i docenti non insegnano ai dottorandi, e la tesi finale è seguita in modo più burocratico che altro. Ebbene, voi adesso, forse presto, non lo so, ma riflettete su questo. La nostra università è in crisi perché il meccanismo dei dottorandi è quasi così la spia per capire perché non funziona l'università. Cioè, dovete prendere tanti nomi, ma la selezione dei dottorandi, la loro formazione e il loro futuro, tre livelli, selezione, formazione e futuro, è verificare come si blocca la nostra università. Questo si blocca con il governo di destra e con il governo di sinistra. Purtroppo un ministro come Mussi, cui io inizialmente avevo abbastanza stima, ma combinare, come vi dico, anche tu, ma insomma, il nome del 32 è stato un disastro, ma è stato lui che è stato Berlinguer, un disastro. Adesso lascio il comune di correggere, benissimo, però questo è un aspetto, cioè culture che non funziona. Ma allora, l'ho detto, la prima assemblea fatta qui, in questa stanza, appena fatta, quando fu proposto il 32, c'era un gruppo di studenti che si chiamavano il mio comune, c'era un nome strano, che insieme criticavano un 32. L'avevo già accennato, non poteva funzionare. L'eccesso d'esami in tempi brevi non poteva funzionare. Ma, ripeto, il dottorato è la chiave dell'università. Se non funziona il dottorato, l'università è morta. Non c'è niente da fare. Ah, io c'è l'altra. Sì, però è sufficiente con in alto. Qualcuno di voi si ricorderà, adesso vi racconterò la storia più bella della mia vita, che io una volta scherzando dicevo a piacere, avevo tentato il superlativo assoluto. dire che io delle cose di quelle cose che erano più belle che la Cina, il dettaglio assoluto della lingua non mi piace, no? Però in mezzo non ci vediamo adesso. Bene, in scarpe della Temasi, forse qualcuno lo ricorderà, Temasi mi chiede l'incarico quando era presidente di aprire la facoltà di sera. E infatti perché delle università nostre devono essere chiuse di sera? No? In tanti altri paesi le università sono aperte di notte, a volte sono aperte tutta la notte, no? A volte gli studenti hanno le chiavi e entrano e usano i computer, insomma, l'università deve essere aperta. Perché? Io l'altro primo ho detto sempre con un gruppo di ringraziati, di un progetto insieme, mi ricordo Giulia, era giovanissima studentessa e faceva poesie. Faceva poesie e piaceva così, una sala straniera come questa, accompagnata da uno che era un famoso, di qualità, no? Dall'altra parte avevamo fatto dei tubi strani neri in cui bisognava attraversare, avevamo fatto c'era un'opera d'arte, una polacca arrivò e ci presentò la gamba oscura, come l'aveva pensata Don Battista Alberti, per cui entravi dentro la camera proprio di Don Battista Alberti, dove c'era un filo di luce di camera rovesciata, poi c'erano musiche, si ballava, c'erano film, e a un certo punto, mi racconto questa perché ne sono profondamente orgoglioso, a un certo punto è forte che è una citazione di un famoso film di Orson Welles. A un certo punto non so bene come avevo sempre un gruppo di studenti del primo anno, sai, tu non c'eri già più, era un gruppo di studenti che purtroppo adesso non c'è nessuno, che mi aiutavano per le scarpe, a un certo punto, De Rossi, non lo so, non lo so, dove stai? Mi fa molto piacere che ci sei, molto non. Una scarpe. A un certo punto mi viene in mente l'idea di dare, era uscito il film di Michael Moore, no, con tutta l'idea di dare la laurea honoris causa a Michael Moore. Ma io ero un po' così, un po' per gioco, l'ho detto, adesso non mi ricordo esattamente, a un certo punto mi telefona uno del manifesto e mi dice, ho saputo che lei vuol dare la laurea honoris causa. E io gli dico, sì, è ordinare, il giorno dopo che l'ho in casa, la grande cosa, io ci ho dato un manifesto articolo così, Laura, no, che sta usando Michael Moore, non vedo quello che succede. Mi telefono tutti, dalla Francia, la Germania, l'Italia, mi telefono tutti. Io sapevo più che fare, insomma, l'ho detto. Il giorno dopo, una telefonata, sono il prefetto, sono la segretaria del prefetto. Che è successo? Lei sa bene lo che sono, perché la laurea non mi scalza, non le dà una cattedra, ma la dà il rettorato, ma c'è, ma ce ne vanno le fiere, non si si immagina che gli do la laurea non mi scalza, ma a me, perché capisce bene il professore che lei sta facendo una cosa che non è giusta, è illegale, ma no, si immagini, tranquillizzi il rettore, è così. Nello stesso tempo, adesso nel manifesto era uscita la tacca, e che era il giorno dopo. Il giorno dopo l'aula magna da noi, ma non è straniera di gente, televisivo, giornalisti, di parte. Aspetta, cinque minuti prima io raduno la mia squadra, nella mia stanza, vi dico una cosa, tu lo sai, no? È tutto falso. Non è vero, ma che non ci sono, non sono mai parlato, allora anche pensato di parlare, ho scritto l'email alla sorella, la sorella mi ha risposto, non era riuscito neanche a mandare al contatto. Non è vero, i studenti cascono svenuti, non dica così. E che facciamo adesso? Mi devo dire una cosa. Io ho preparato una cosa, allora la strategia sarà questa, io ho preparato un rotolo che viene comportato in mezzo, che era la laurea non riscalda, tutta pausa, fatta da me. Un libro, una cosa, no? Laura non riscalda. E prego dentro, e adesso, adesso faremo un contatto, non c'è, però è in contatto con noi, tipo, a Cicato, per dire, no? Adesso ci mettete in contatto, ma non è tutto libro, perché non funziona, mi pare che la sociologia, vero, che i programmi di contatti, tipo, abbiamo fatto finta di fare una cosa, mannaggia, non funziona in questo momento, vabbè, non fa niente, allora io lo do ufficialmente, sono andato, tutti hanno applaudito e nessuno ha saputo che non sapevo che era una cosa che non mette pace. Però mi sono orgoglioso perché c'è in parte di questo il vero e il falso, è for fake, il falso vero prodotto tante cose. Questa è una falsa potenza seria. Andiamo a far vedere perché questa falsa sembra di là. Thank you. la tesi di Laura Di Luca, c'era detto, e al centro io avevo cambiato la tesi da Di Luca con quella di Lincoln, perché a Porta Corsese è stato un grande interprete di Lincoln, quindi non è di spesso non si vede, immaginate. E qui arriviamo alla grande occasione. La grande occasione che si presenta a metà del 2000 è la partecipazione che abbiamo parlato ieri del funerale di Borodo e il fatto che io ho incontrato la scena di quello che sta qui presente con noi, che ringrazio di nuovo per la sua presenza. La ricerca etnografica non è mai solamente la ricerca etnografica nel senso di studiare il funerale di Borodo, anche normalmente, ma per me si è mescolata alla mia dimensione proprio personale, affettiva, amorosa. Per questo quando ho pensato inizialmente di dividere la mia esperienza biografica da quella scientifica, disciplinare, è impossibile, e credo che è ancora più chiaro adesso, perché questa è la ricerca, la cultura Borodo, il rapporto appunto con scena è diventata una cosa che intreccia in maniera profonda la mia, ma penso quella di tutti voi, una dimensione personale, biografica, amorosa, eccetera, con quella dei sapere, di come fare ricerca. Queste due cose per me separate sarebbe un po' complicato, e quando si intrecciano possono diventare una delle cose più belle, con una grande esperienza, molto bella. Per cui ho cambiato anche il mio cognome, come avete visto, perché in Brasile, a differenza che in Italia, quando ci si sposa, anche l'uomo può cambiare il cognome, cioè prova a aggiungere al proprio cognome quello della moglie. Per cui per questo voi trovate nella cimitero, che a me fa molto piacere. Qui c'è l'immagine della vita della morte, che e il sera abbiamo fatto santo, stiamo facendo santo, invece questa è un'immagine di scena, questa è una pupilla praticamente, è la pupilla un occhio che viene trasformato e danzato da scena da un lato, e poi dall'altro un po' pago, non faccio adesso, però un po' più. E quindi escono questi due libri che conoscete, le ricordo le sue capacità, escono insieme. Nello stesso anno, questo è una cosa che anche io stesso mi sono un po' meravigliato, che fare due cose così diverse, per come ho detto poi non è vero, non sono totalmente diverse. Qui ho messo alcuni testi sul viaggio che avrebbe piacere parlarne, perché alcuni che ho già parlato veramente, quindi li riassumo. Per esempio Marx, i manoscritti, non so, i manoscritti del 44. Il giovane Marx affronta per la prima volta alcuni aspetti fondamentali della crisi del capitalismo, e affronta ancora con un tipo di scrittura filosofica, diciamo, no? Mentre i Grundrisse sono veramente una delle parti più toste, come si dice, sulle macchine, c'è la parte sulle macchine che producono valore, ci sono degli aspetti, adesso non entro nel dettaglio, molto apprezzati di Marx. Casualmente tanti autori adesso stanno rileggendo Marx per capire la crisi attuale in cui le banche vengono statalizzate, si sono messi a rileggere Marx, perché è una cosa molto piacevole. Poi c'era Freud, sia Totem e Tabù che Il disagio della civiltà, ho messo due libri perché Totem e Tabù è un testo in cui psicanalisi, antropologia e letteratura si intrecciano. Psicanalisi, letteratura e antropologia. È un testo che è molto bello, Totem e Tabù, in cui affronta la questione dell'uccisione del padre, dell'igiene, insomma adesso però un po' di più in dettaglio, e l'altro del disagio della civiltà, di cui vi ho già parlato, il disagio della civiltà, Freud, appunto, il fatto che la repressione degli istinti è funzionale allo sviluppo della comunità. Adorno, ecco, Marcuse, ho detto che Cracavo, che vedete con Caligari di Kiefer, è un testo veramente ancora bellissimo, è da Mondadori. Poi c'è un autore, Lukács, che ha scritto Storia e coscienza di classe, un marxista un po' più ortodosso, che però aveva fatto un'introduzione nel 68 in cui criticava alcuni aspetti che era stato costretto a dire, che Lukács, dovendo creare un paese, andò all'Unione Sovietica, e lì ovviamente non diceva delle cose, e li cacciava. Per cui disse delle cose strane, si autocriticò per sopravvivere, però il testo è molto bello perché afferma la spontaneità. Storia e coscienza di classe è l'unico grande testo filosofico e politico che affronta la spontaneità dei processi di trasformazione. E poi lui si è applicato. Quindi era un testo molto bello in tanti aspetti. E anche Lukács aveva affermato la soggettività come importanza. E infine dice, invece è importante per me per tanti aspetti. Per essere molto breve, Nietzsche, che veniva considerato un autore, diciamo, di destra, eccetera, veramente una cultura grossolana, se sapete la storia, la sorella, che diventò un nazista, che cercò di dare questa etichetta a Nietzsche, che aveva una composizione molto più articolata, molto più interessante, e poi lui è stato il grande critico della morale. Certi aspetti delle religioni, anzi delle religioni in generale, e il concetto di genealogia, però sottopone questo, che genealogia è diventato un concetto fondamentale perché poi è stato sviluppato da tantissimi altri autori, tipo Foucault. E voi probabilmente dovete studiare Foucault, bravo, importante, figuriamoci. Solo che io mi sollevo su questa riflessione. Il concetto di genealogia in Nietzsche, quando affronta la morale e sviluppa come ha una sviluppo la morale nelle varie origini della civiltà occidentale, nello stesso tempo Nietzsche fa una distruzione di questa genealogia. Cioè, genealogia è un'opera di filosofia critica. Foucault, secondo me, è un'opera di storia critica. Ma l'approccio di Foucault, storia critica, è debole. È più debole rispetto al concetto di genealogia di Nietzsche. Per cui sono sito che dico, se volete entrare, io dico, voglio entrare dentro questo aspetto, la genealogia di Nietzsche è ha un approccio che è filosofico, ma nello stesso tempo di gran lunga più critico, entra dentro con il cuore il problema della morale, che è nata dalle cicatrici, dalle riflessioni, dalle castrazioni. Ogni volta che tu senti una particolare, si ricorda che c'è stato qualcuno che ha scelto qualcun altro, ed è basato questo che dice sulla memoria. Si dice ma una grande critica al concetto di memoria. La memoria è l'alleato della morale perché ricordando io imparo, che è anche ricordando una riflessione. È la riflessione attraverso cui si impara, che è l'altra grande metafora del racconto di Kafka, della guerra delle lame. La metafora è questa, solamente graffiando la schiena di questo corpo disgraziato si apprende il perché e la condizione. Quindi Nietzsche, secondo me, è un autore di straordinaria significatività. Il consiglio Nietzsche è più che Foucault, oppure tutte e due, però per me Nietzsche. Poi ci sono tutta una serie di autori, ovviamente adesso non è che però certo, se avete letto Francesi ancora uno sforzo nella filosofia di Baudelaire di Sade, veramente grande filosofia, grande testo, uno dei testi più straordinari, secondo me, che si possa leggere la filosofia di Baudelaire. Di cui Battaglia poi il continuatore, il Sole dell'Occhio, forse l'unico romanzo surrealista che sia scritto, lo scritto, partò le riviste, dove ho parlato, vedrò, stanno a favore di felice Ascari, noto giovanissimo, hanno fatto questa ricerca molto più avanzata di Strauss sulla società senza Stato, abbiamo parlato. Gramsci che autorizza la cultura dalla Bolivia, quindi Gramsci è l'adorno nostro. Il consiglio che vi do per chi non c'è più andato, che è già convinto, andate a vedere il cosiddetto cimitero di Inglesia cattolico, a Porta San Paolo c'è la parte dedicata a Gramsci e poi anche a Keats, che è veramente di grande emozione, è il posto con tutti i posti più amorosi che ci sono a Roma. Il grande Machiavelli, Machiavelli non è il machiavellismo, Machiavelli è l'unico con una grande scienza della politica che si autonomizza dalla morale, appunto, e che tentò di realizzare l'unità didattica. Il grande Machiavelli, quindi mi raccomando, Machiavelli non lo dubitate, non fanno i retori con il machiavellismo, il figlio di Segnezzi, questo qua. Machiavelli è veramente il grande scienziato della politica. E poi Pasolini, la poesia. E Antonioni, non so anche Antonioni, perché l'inquadratura di Antonioni è bella. Qui ci sono di tutti gli antropologi, vi ho già parlato su tutti, però Radin, vi ho accennato l'altro giorno, grande antropologo del Fritz, di questo curriculum divino, ve lo raccomando, un testo che sa perché non è stato tradotto, bellissimo, e grande Gilberto Freire, grande consigliato, che scrive un saggio sulle case, e sulla cultura polacca in Brasile, un grande autore secondo me, nonostante le critiche che hanno fatto, un grande, il grande Bakhtin che fa una ricerca sul canale Strepitosa, vi cito Basaglia perché Basaglia è veramente un grande, Basaglia è stato lo psichiatra che ha abolito i manicomi come carcere, quindi attualmente c'è un tentativo di attaccare una delle più grandi leggi civili fatte in Italia, di cambiarla, perché dobbiamo sempre ricordare che prima i cosiddetti malati di mente erano in una posizione peggio che le carceri, erano le mani, erano le cose più terribili che erano fatti negli ospedali psichiatri. E il grande liberatore è stato proprio Basaglia che ha ritagliato, cioè ritagliando le sbarre, facendo uscire le persone. Una delle persone più straordinarie che ci sono in Italia, quindi grande omaggio alla liberazione della psichiatria che ha fatto Basaglia. Io vabbè, qui ci sono. Poi c'è anche brevemente, scrivere culture. Questo libro che è uscito tutto negli anni 80, poi che a noi ci piace tutti, è un libro che innovava l'antropologia, però ha dei limiti e noi vorremmo fare un seminario su questi limiti, lo vorremmo fare prossimamente in primavera. E lo possiamo dire chiaramente perché l'antropologia non ha prodotto poi delle innovazioni dopo questo testo, è stato un bel testo di critica verso il passato, ma non ha costruito il futuro. Secondo me il limite è sulla scrittura, perché loro scrivevano, giustamente, quando stava nascendo la cultura digitale. E non hanno capito la cultura digitale. E la cultura digitale, la comunicazione digitale, non è solo scrittura. Il compito che voi avete è un compito meraviglioso. È il compito di affermare una molteplicità comunicazionale in cui la scrittura sia chiaramente presente, la razionalità sia presente, ma non quel tipo di razionalità. Sviluppiamo nuove forme logiche e accanto e anche contro questa razionalità, scusate, c'è la dimensione dell'immagine, della musica, cioè sviluppare una composizione per concetti sensoriali. Questa è l'idea di fondo che cerca di andare oltre la scrittura delle culture. E questa prospettiva riesce anche a stabilire delle relazioni, per esempio per chi è stato nella Deia Valoro, tra queste popolazioni, perché per un giovane proroco è molto più facile intrecciare la cultura orale, musicale, danzante, anche scritta, con la digitale. È facile, si impreccia. E il libro, come dicevo l'altro giorno, è una tecnologia che è legata alla riduzione. Quindi non si tratta di abolire la scrittura, si tratta di inserire la scrittura nella comunicazione accanto ad altre linguaggi. Questo è il compito, secondo me, che ci dovremmo ricordare. Anzi, è il nostro compito. Il vostro compito sarà quello di sviluppare, io credo, nel modo più autonomo, ricco e sperimentale la molteplicità delle comunicazioni, la molteplicità comunicazionale. Qui non si legge più, mi spiace. E quindi in qualche modo è arrivato per me il momento di fare altri viaggi e altre esperienze, altri mondi, quindi vi rimetto il cammino. Ci sono delle parole brasiliane che sono portoghesi, scusate, che sono bellissime. La prima purtroppo non si legge, desassossego. Desassossego vuol dire, diciamo, inquietudine. Ed è anche qui un libro di Pessoa, si intitola così. È bella parola, ecco. Avere inquietudine vuol dire che sì, possiamo stare un po', però non si può stare tanto prima. L'inquietudine ci fa muovere. Saudade, che è una parola portoghese molto usata anche in Brasile, che non è nostalgia, a me piace tradurla con nostalgia di futuro. Quindi desassossego, l'inquietudine è anche basato su questa saudade, questa nostalgia di futuro. Benissimo, ma sapete benissimo che vuol dire, anche se prende anche un'altra cosa. E adesso è arrivato finale, però ci daremo se voi leggete, se non ci riuscite, vediamo un po' come si può fare. Mi do che si può. Ah, mi è andata a cercare giustamente. Io stamattina pensando come chiudere, diciamo, questa strana ultima lezione, ho pensato, poi alla fine è venuto, proprio è venuto un po' di tempo. E ho scelto un brano, che è tratto dallo screen, che ha la relazione con le foglie, che vede, quindi ancora la relazione che vi ho detto prima tra Amanco e Baudelaire è anche legato da questo. E quindi adesso vi leggerò un taglio al montaggio di questa riflessione che nello screen Baudelaire fa sulla porta. Mi dispiace, non potete leggere, però dovremmo aspettare. Non a tutti è dato concedersi un bagno di moltitudine. Godere della folla è un'arte, e può prendersi una sbronza di vita alle spalle del genere umano solo colui a cui una maga ha istigato dalla culla il gusto della maschera e del travestimento, il ribrezzo per le pareti di casa e la passione per il viaggio. Solitudine, moltitudine, termini uguali e convertibili per il potere fecondo e attivo. Chi non sa popolare la sua solitudine non saprà essere solo in una folla imbastarata. Il poeta gode di questo incomparabile privilegio, di poter essere a suo piacere se stesso ed altri. Come quelle anime vagabonde che bramano un corpo, lui penetra a suo talento nella maschera di chiunque. Chi va in giro a piedi, solitario, meditativo, ricava una singolare ebbrezza da questa comunione universale. Colui che sposa facilmente la folla conosce gioie febbrili, di cui saranno eternamente privi l'egotista, inchiavardato come un forziere, e il pino, inviluppato come un mollusco. Lui assume su di sé tutto. tutte le professioni, tutte le gioie, tutte le sventure che l'occasione vi offre. Ecco, la riflessione, non è mai che tornata, anche l'inizio, la riflessione che viene da fare, fatto da tempo, mi è tornato questa mattina, è il concetto, il rapporto tra solitudine e moltitudine. Perché molto frequentemente il concetto di folla, così come di moltitudine, è visto in termini negativi. No, i dittatori amano le folle perché le devono sedurre, oppure si ha paura della folla. Qui Baudelaire dice una cosa che tra l'altro aveva detto anche Marx, pensate, cioè è lo stesso periodo, però veramente assolutamente, cioè che si può essere soli solo nella forma. Quindi la concezione di Baudelaire è totalmente diversa da quella che poi diranno i sociologi, la forma solitaria, tutto questo qua. Noi diventiamo individui, la nostra individualità si rafforza in quanto stiamo dentro una metropoli, e perché nella metropoli c'è la folla. Quindi la folla non è produttrice di anonimato. La folla, sentiamo Amazon. La folla è produttrice di individui. L'individuo, cioè, si afferma ancora di più nel contesto metropolitano, non fuori della città, ma dentro la città, e dentro la città c'è la folla che non va disprezzata, non va umiliata, non va classificata. Io detesto classificare le folle, o chi è folla. Allora Baudelaire qui sviluppa un concetto veramente straordinario di solitudine e moltitudine. Salutiamo Luisa Capelli, che è anche la nostra editrice della Mentelli. Quindi il fatto che io sono individuo, mi affermo come soggetto ancora di più perché sto nella metropoli, questo dà una prospettiva di enorme ricchezza. E quando io vi ho parlato, se ricordate, all'inizio del corso, il concetto di chiamava metropoli comunicazionale, tanto per capirci, una nuova forma di metropoli si allarga, e la metropoli. Questo aspetto si intreccia con la Svezia, non c'è una differenza sostanziale tra questa area metropolitana e l'area della Svezia, anzi è possibile sostenere, anzi questa è un'ipotesi su cui poter lavorare, che l'area metropolitana mette in discussione il potere dello Stato-nazione. L'area metropolitana mette in discussione il potere dello Stato-nazione, quindi ha delle tendenze, delle pulsazioni, diciamo così, a fuoriuscire dalla modernità. Non è quindi postmoderna, è un'altra cosa. L'area metropolitana sta definendo delle appartenenze in cui io personalmente non mi sento più solo, ma non mi sento, se io mi sentissi identità romano, sarei veramente un soggetto della tradizione moderna. Ma se io costruisco la mia, o elaboro, produco, invento la mia identità, nella mia identità certamente c'è elementi romani, c'è italiani, quello che volete, europei, ma ci saranno anche altri elementi, non solamente il Brasile, pezzi di India, pezzi della Francia, tanti elementi che costituiscono qualche cosa che sta dentro l'esperienza della metropoli. Io vado a Berlino, sento che lì appartengo a una cittadinanza. Cioè il concetto di cittadinanza, quindi è una cosa in cui credo profondamente, non è più la cittadinanza legata allo Stato-nazione. Noi stiamo in un momento in cui è possibile, scusate, elaborare un concetto di cittadinanza che è transitivo. Io mi sento cittadino, se volete, tanto quando sto in questa area romana, tanto quando sto a Berlino, o sto a Barcellona, o sto a San Paolo. Quindi la mia cittadinanza è transitiva, non è più determinata dallo spazio, dal luogo, da un territorio, da un'identità politica, diciamo così. Non è più così, cioè anche così, ma io mi chiamo fuori da questa dimensione e credo che nell'area metropolitana attuale, non più industriale, si stanno creando le condizioni, diciamo, per una cittadinanza digitale, chiamiamola così. Cittadinanza digitale per me è transichina, è la cittadinanza palestina. Io sento che ho gli stessi diritti e lo stesso potere in quanto soggetto a Roma, a Berlino, a Barcellona, nella Italia a Roma. Questo per me implica la fuoriuscita di un potere di controllo che è quello dello Stato-Nazione. Non quindi la distruzione dello Stato, che era una prospettiva in parte anarchica, in parte del cialtronismo. Non è tanto questo che attualmente è presente. Non si tratta di Stato o rivoluzione, che è un testo di Vieri famosissimo. Qui ci troviamo di fronte al fatto potenziale in cui il soggetto, il multilingue, scorre per questa area metropolitana che ha i confini certi, dilatati perché è comunicazionale, e che all'interno di questo processo io affermo un nuovo concetto di cittadinanza. Cittadinanza digitale, cittadinanza transitiva. E cittadinanza, mi piace il termine, perché è legata alla città, cittadinanza, non è legata allo Stato. Il cittadino è legato alla città. Allora, se noi stiamo in questa mutazione, città, metropoli, metropoli comunicazionali, chiamate come volete, qui è un nuovo territorio materiale e immateriale, materiale e immateriale, in cui stiamo per creare dei nuovi diritti, chiamate così, o una nuova politica. Termine forse impreciso, ma chi lo sa qual è. Allora, questa riflessione, secondo me, ha come matrice una serie di autori precedenti, tra cui Baudelaire. Io sono solitario e sono soggetto, sono individuo perché sto nella folla. E la folla sta nella città. E la città è metropoli. Una prospettiva, ripeto, che Baudelaire fa di gran lunga più avanzata di sociologi, di antropologi, psicologi, quello che volete, la politica, la politica. Quindi vi suggerisco, da questo screen, e magari se volete leggendo Alan Poe, quest'altra prospettiva. E poi, capite, il desiderio della massa, il travestitismo. Baudelaire dice che il poeta, naturalmente io qui gioco un po', il poeta e l'antropologo, l'etnografo, afferma che può essere sé e un altro, qualsiasi altro. Quindi la maschera, sapete, il potere della maschera è questo. Io assumo non più la mia identità, ma sappiamo che il potere desiderante della maschera deriva dal fatto che c'è un filone sotterraneo che si afferma come desiderio di avere autentità dell'identità alterate, altre. La maschera è una di questi torrenti, diciamo così, no? Mascherato, che favorisce questa modificazione dell'identità. Allora, la riflessione, per questo la riflessione sulla maschera è una grande riflessione della critica dell'identità singola, non annullata, mi raccomando, ma l'identità molteplice ha dentro il corpo della maschera e poi naturalmente la passione per il viaggio. Vedete che c'è una relazione per potere tra passione per il viaggio e il desiderio della maschera. E se capite questa relazione, avete capito tutto. Passione per il viaggio, desiderio della maschera è poesia e antropologia. E infine è comunicazione. Vedete, saper popolare la solitudine è una forma, insomma, di una solitudine, mettere insieme questi due concetti. E qui vedete il poeta gode di questo privilegio, cioè se si spiega, questo già ve l'ho detto, sull'ultima persona, ecco questo aspetto. Spesso vi ho detto l'antropologia, l'etnografia si fa da soli, si è in solitudine, e la solitudine è anche una buona solitudine, naturalmente, bisogna apprendere a vivere con piacere anche la solitudine. E allora avevo un'immagine, guardate che caso, me lo preparavo, non lo sapevo, No, io continuo. Tu puoi continuare oppure possiamo farti. Possiamo farti delle domande, non so come. No, io adesso voglio mettere in difficoltà perché quella tutta questa nuova presentazione, l'ultima lezione ha capovolto quello che ha detto negli ultimi 10 anni, quanto memoria storica della cattedra non gli ha posto far passare liscia. Adesso mi spieghi il legame tra criticismo e ritorno a Marx, così, cioè questo materialismo politico e politicante con cui te ne sei uscito nell'ultima lezione a favore di una cittadinanza. Vai. Scusate, adesso non ce la faccio, mi avevo spaccata, non so se sapete cos'è questa. Poi il simbolo della cattedra che stava nella bacheca, che è stata tagliata da alcuni studenti. Thank you. and now often finally she can look at me. Thank you.